La parola di Dio dice: Ci è una razza di gente che maledice suo padre e non benedice sua madre. Ci è una razza di gente che si crede pura e non è lavata della sua sozzura. Ci è una razza di gente che ha gli occhi molto alteri e le palpebre superbe. Ci è una razza di gente i cui denti sono spade e i mascellari sono coltelli per divorare del tutto i miseri sulla terra e i bisognosi in mezzo agli uomini. PV 30.1114. Ciò che abbiamo letto vuol dire che non possiamo fare di tutte le erbe un fascio, poiché esistono persone orgogliose in modo particolare, altre che pur di arricchirsi compiono ogni ingiustizia, altre che non rispettano affatto i genitori, e altre ancora convinte di essere giuste, pur non essendolo. Ma a mio avviso vi è un'altra brutta razza dal comportamento ignobile che deve essere portata allo scoperto. Non soltanto perché se ne venga a conoscenza, ma perché sono fin troppi coloro che si comportano in un modo ripugnante, e quindi si deve fare attenzione a non imitarne il comportamento. Questa razza brutta e ignobile sono i credenti, cioè tutti coloro che hanno una fede. Che i credenti facciano del male in modo ignobile è risaputo, perché la storia abbonda nella narrazione di innumerevoli scelleratezze scaturite dalla convinzione di credenti, appartenenti a qualsiasi credo religioso, di compiere delle cose più che giuste. Se questo aspetto fosse presente solo nelle religioni sanguinarie, ingiuste e barbare, non ci sarebbe nulla da dire, perché il credente si comporterebbe in conformità ai dettami della propria fede, ma ritrovando questa razza brutta e ignobile anche in chi ha posto fede in Gesù, si rimane esterrefatti. Lo stesso Gesù denuncia questa incoerenza rivolgendosi ai suoi discepoli. Vi espelleranno dalle sinagoghe. Anzi, l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio. GV 15.2. Nel suo corso la storia ci ha mostrato largamente questo fenomeno nella religione cattolica romana, la quale, per secoli meno in nome di Dio, ha decretato il barbaro massacro di milioni di persone soltanto a causa del loro mancato assoggettamento all'autorità dei propri capi. Compiere il male quando non si ha una fede religiosa è una cosa, ma compiere delle scelleratezze mossi dalla fede non trova davvero alcuna scusante. È già disdicevole che una persona faccia del male perché non ha una morale, ma è spregevole al massimo quando in nome della fede si compiono le più atroci vendette e i crimini più aberranti. Si deve ammettere che i credenti in merito al male superano di gran lunga le atrocità degli increduli, non tanto per gli atti in sé, ma perché in nome di una giustizia compiono le peggiori ingiustizie. Questa brutta razza dovrebbe essere denunciata sul nascere. Questa razza brutta, ignobile e ripugnante era decisamente nota a Gesù, infatti quando viveva tra i religiosi suoi contemporanei ha dovuto chiamarli razza di vipere, epiteto questo, più che appropriato. Infatti, corre voce che la vipera partorisca sugli alberi o comunque in alto, per evitare gli eventuali morsi dei propri piccolini. Purtroppo, dopo 2000 anni, le cose non sono cambiate. Anche oggi tra i credenti vi è purtroppo una razza di persone ripugnanti a causa del loro modo di comportarsi. Per carità, i comportamenti ai quali si fa allusione non sono, è ovvio, apertamente malvagi, perché in tal caso certe persone non sarebbero nemmeno ritenute credenti. Ma la malvagità, menzionata meno, per usare una espressione biblica, meno, è nelle pieghe dei loro abiti, cioè così diabolicamente subdola, al punto da apparire perfino come un grande atto di spiritualità. Quali sono questi atti così spregevoli in un'azione apparentemente buona e spirituale? Prendo come esempio tre settori: la preghiera, le proposte e il principio della comunione. La preghiera quasi sempre è ritenuta una delle forme più spirituali, un gesto di comunione e un momento sempre virtuoso. Al punto che nel cattolicesimo non importa chi prega o con chi si prega, ma l'importante è pregare. Ne è la prova la riunione di preghiera che si fa ad Assisi quando i capi religiosi di confessioni opposte tra loro si ritrovano a pregare assieme. Eppure spesso non esistono momenti più spregevoli di quelli di preghiera. Ero presente ad uno di questi incontri tenutosi in una chiesa dove era necessario eleggere dei nuovi conduttori, quando un credente sensibile a questa necessità propose di eleggere un fratello presente alla riunione, essendo a conoscenza della disapprovazione di un altro fedele, partecipante all'incontro, in merito a questa scelta e, osservata l'evidente titubanza degli altri, stetti attento per comprendere quale modo democratico e spirituale avrebbero impiegato per eliminare la proposta. Non ci volle molto tempo perché il fratello in fede, con un'aria di massima spiritualità e di sapienza divina, dicesse: la proposta è molto buona, però data la situazione delicata, data la scelta importante, poiché non possiamo sbagliare, io propongo di pregarci sopra, di attendere da Dio una risposta chiara in merito, e poi ne discuteremo. Gli altri fratelli ignari dell'astuzia e della malvagità di chi si era appena pronunciato, ritennero la proposta molto saggia e accettarono di pregare singolarmente per essere meglio illuminati al riguardo. Solo che né il fratello né gli altri a lui concordi in seguito non riferirono mai più cosa Dio avesse loro illustrato in merito. Forse ancora oggi stanno pregando. Una cosa è certa, però: la bocciatura della scelta di nominare conduttore il fratello precedentemente proposto risultò automatica e indolore. La preghiera era dunque servita come arma subdola e maligna per dire di no, invece di dare una risposta contraria, ma franca e onesta. Questa brutta razza ignobile di persone si serve della preghiera in tutte le circostanze. Ho ricevuto una telefonata da una credente, la quale mi chiedeva di pregare per lei. Chiesta la ragione, mi disse che voleva lasciare il suo amante e domandava preghiere perché fosse fatta la volontà di Dio. Conoscendola bene, sapevo che già in precedenza aveva litigato con il marito perché non accettava le continue richieste sessuali. Però dopo la separazione dal coniuge, lei si innamorò perdutamente di un altro uomo, con il quale aveva rapporti sessuali molto frequenti, tutt'altro che lamentandosi. Ora, però, sazia di questa relazione, mi chiedeva che fosse fatta la volontà di Dio. Perché non mi chiese di conoscere la volontà di Dio quando si innamorò di un altro uomo? Perché non si domandava se era la volontà di Dio essere tra le braccia di un uomo che non era suo marito? Perché pregare solo ora che fosse fatta la volontà di Dio quando era disposta a perdere il suo amante? È facile pregare sia fatta la volontà di Dio quando nel cuore si è già disposti a compierla, perché tutto sommato ogni cosa torna a nostro favore. Eppure questa razza ignobile di credenti si sente soddisfatta quando prega, perché nel proprio malvagio cuore si credono spirituali più di altri. Come dice il libro dei Proverbi, ci è una razza di gente che si crede pura e non è lavata della sua sozzura. Che dire poi di coloro che sono dei fannulloni e si servono della preghiera per continuare a non lavorare? Sono coloro che non hanno un lavoro e quando si presenta una occasione, se vedono una qualche possibilità di essere assunti, chiedono le preghiere per sapere se è la volontà di Dio svolgere quel lavoro. Dato che molto difficilmente qualcuno può decidere per un altro riguardo al lavoro, la prospettiva per questi credenti è di non ricevere nessuna risposta, per cui nel dubbio saranno indotti a accettare che la volontà di Dio sia un no. Questa è veramente una brutta razza di credenti, dai quali è meglio guardarsi, senza imitarne l'esercizio della fede. È meglio un incredulo onesto intellettualmente che un credente che si ripara dietro alla forma religiosa per ottenere i suoi malvagi scopi. Niente è più ripugnante, come del resto è disgustoso, fare delle controproposte unicamente per impedire che un'idea alla quale non si è concordi giunga a compimento. Questo modo vile e malvagio di comportarsi si trova spesso nelle riunioni di chiesa, quando con tanta fatica e con tanto amore si vuole dare alla comunità degli indirizzi e obiettivi per il bene di tutti. Ma poiché questa brutta razza ignobile di credenti si trova ovunque, ancora una volta con una presenza del tutto apparentemente spirituale, riesce a distruggere ciò che di buono era stato costruito. Dopo aver meditato, faticato e fatta una proposta studiata in tutti i particolari, ecco che il fratello appartenente alla brutta razza fa un discorso del genere: «Io credo, fratelli, che la proposta sia buona, Però secondo me è meglio fare in un altro modo. Anziché portare l'Evangelo in questo rione, è meglio portarlo in un'altra zona perché là ci sono più persone e tante altre motivazioni. E poiché alla controproposta non fa seguito nessun piano, la riunione finisce senza una decisione in merito a cosa fare. E, vero, quando si vuole bocciare una proposta, a volte basta solo chiedere di pregare e pensarci su, mentre a volte è sufficiente fare un'altra proposta contraria, e così tutto salta all'aria. Pronunciarsi con un no potrebbe creare dei nemici, di conseguenza adottando due gesti. Apparentemente spirituali, si ottiene il risultato desiderato, salvando faccia e reputazione. Quanto è vile il cuore dell'uomo credente. Infine, per ottenere un buon risultato negativo con un gesto positivo, è sufficiente invocare il principio della comunione. Quando un fratello è desideroso di conoscere altri figli di Dio di altre comunità, ecco che il credente appartenente alla brutta razza, ignobile, lo ammonisce dicendo: «Se tu vuoi avere comunione con me, non puoi avere comunione con altri, perché io non sono in comunione con loro». La comunione dei figli di Dio è un dono preziosissimo, ma può trasformarsi anche in un'arma a doppio taglio. Per questa ragione certi movimenti religiosi rifacentesi alla parola di Dio si sono trasformati in sette. Quando ho chiesto ad un conduttore perché non si invitassero altri figli di Dio a predicare la parola di Dio nella comunità da lui frequentata, mi fu risposto che era a causa della mancanza di comunione in merito a certe vedute bibliche, e perciò per salvaguardare i credenti della loro comunità, non li esponevano all'ascolto. Da un lato è lodevole questa attitudine, e anche da ricercare, ma quando in nome della comunione non si accettano nei fratelli certe differenze di vedute o opinioni, Romani 14:1, allora in nome della comunione si crea la divisione. Poiché una separazione aperta e franca sembra un atto poco spirituale, per non voler sbagliare, ecco il grande inganno, ci si vuole separare in nome delle comunione. E così nessuno ha niente da dire, perché così il gesto appare come il frutto della fedeltà alla verità. Questa brutta razza di credenti dimentica volontariamente che alla fine della propria vita ognuno di noi dovrà rendere conto di se stesso a Dio, e anche quando salviamo la faccia davanti agli uomini la perdiamo davanti a Lui. In definitiva, meglio perdere un poco di sporca e ignobile religiosità che essere dichiarati spregevoli davanti a Dio. Dicembre 2007. Ellero.